Il generale presidente si è distinto nella guerra contro il Paraguay, poi per il massacro dei contadini del nord. I contadini del nord avevano cominciato a pretendere. Avevano pregato dapprima, ma non erano stati esauditi. Poi avevano timidamente richiesto, ma non erano stati ascoltati. Avevano supplicato inutilmente. E allora avevano cominciato a pretendere. Guidati dai loro parroci, i contadini del nord avevano marciato su Teresina. Teresina era stata minacciata di un'invasione contadina. Il generale presidente aveva fatto intervenire i cadetti dell'Accademia Militare, cavalleria, sciabole, mitraglia, poi l'artiglieria sui villaggi del nord, dove avevano ripiegato i contadini. Con la benedizione del vescovo, il generale presidente aveva fatto fucilare i parroci. Il padre di Pereira, il vecchio da Ponte, disapprovò quel massacro. Da Ponte, il padre, praticava la carità cristiana. Nutriva gratis nelle sue cucine i contadini che affamava innocentemente nelle sue fazendas. Medico, curava nel suo ospedale la disidratazione delle sue pianure e la foruncolosi delle sue montagne. Ascoltava gli affamati, gli assetati, i malati e i parenti dei malati. Il vecchio da Ponte diceva: a un uomo che ascolta non si chiede niente. Quando Pereira tornò dall'estero, cinto dei suoi diplomi, il generale presidente era al potere da 4 anni. Lo uccise all'alba del 5° anno. Fu quasi un impulso. Aveva sentito che il momento era giunto. Si presentò davanti al consiglio e disse: «Ho ucciso quell'imbecille». Aggiunse: «Mi offro a voi, come colpevole o come presidente». Teneva in mano la sua parabellum ancora fumante. Era un Pereira da Ponte. Lo fecero presidente. Al vescovo, che l'aveva tenuto a battesimo, Pereira chiese: «Padrino, mi dia la benedizione». Agli oligarchi decretò: «Non si cambia niente, ci metterò solo un po' di intelligenza». Ai contadini annunciò: «Ho ucciso il macellaio del nord». E all'intera popolazione: «Sarò il vostro orecchio». Era una frase sibillina. Oltre ad ascoltare, un orecchio spia. Ma nessuno se ne rese conto, poiché tutti avevano bisogno di essere ascoltati. Sarebbe quindi la storia di Manuel Pereira da Ponte Martins, dittatore agorafobico, che prenderebbe il potere per intuizione. Una mattina, così. Perché era il suo sogno di bambino silenzioso. D'accordo, ma perché agorafobico?